successo quello che da 6 anni noi diciamo che potrebbe succedere in ogni momento, ovvero un incidente. Noi da sei anni di lotta del comitato diciamo che queste navi non solo sono troppo grandi da un punto di vista di emissioni inquinanti, non solo sono troppo grandi da un punto di vista di masse d'acqua che spostano e spingono sulle nostre case, sulle nostre rive, danneggiandole molto pesantemente, sono anche troppo grandi perché un rimorchiatore possa fermarsi. Noi lo diciamo dall'inizio, anzi non lo diciamo noi, ma lo dicono diversi ingegneri che collaborano col comitato, che queste navi le costruiscono e le progettano. Dico che 90.000 tonnellate di stazza a 6 nodi sull'acqua hanno un abbrivio che nessun rimorchiatore potrà mai fermare. Hanno un abbrivio, si stima, di 1 chilometro, 1,5 chilometri, e quindi quei 2 rimorchiatori per cui tanto si faceva vanto l'autorità portuale di Venezia e tutti i sostenitori della permanenza di queste navi in laguna, dicevano no, ma è totalmente sicura perché ci sono i 2 rimorchiatori di scorta. Noi abbiamo iniziato ad allarmarci con la tragedia al porto di Genova della Jolly Nero, era una moderna porta container della flotta messina, non una carretta del mare, non un'immondizia galleggiante, eccetera, in condizioni meteo marine ottime, con i piloti molto professionali del porto di Genova a bordo. Bene, 2 rimorchiatori non sono riusciti a fermare la derapata di poppa, diciamo, di questa nave che si era appunto guastata al timone, ha raso al suolo la torre faro dei piloti di Genova, in cui diversi piloti anche persero la vita. Là abbiamo iniziato ad allarmarci perché la Jolly Nero è una nave da 40.000 tonnellate di stazza. Ebbene, noi a Venezia le navi da 40.000 tonnellate di stazza non ce ne accorgiamo neanche più. Cioè, ormai noi negli anni siamo abituati, adesso per esempio le compagnie si sono, tra virgolette, autolimitate a far entrare le navi da 96.000 tonnellate di stazza. Quindi noi diciamo, se 2 rimorchiatori non riescono a fermare 40.000 tonnellate, come possono fermarne 96? Infatti non ce la fanno. La nave di ieri, che era una grande nave, una nave da 60.000, e come diciamo da anni, un guasto capita allo scafo più moderno, capita anche, può capitare anche alla nave più tecnologica, più nuova, più mantenuta del mondo. È capitato, il timone si è rotto, 2 rimorchiatori non sono riusciti a fermare la deviazione, c'è addirittura spezzata una cima di sicurezza, come era del tutto ovvio, e la nave è andata a schiantarsi sulla banchina dove era ormeggiato quell'altro battello fluviale, il Michelangelo. Se capitava 100 metri prima era una tragedia, perché la banchina dove si è schiantata l'MSC ieri è una banchina industriale, cioè una banchina in cemento armato, in calcestruzzo, che comunque è stata divelta dall'impatto con la nave. I passeggeri di quel battello hanno rischiato veramente moltissimo, per fortuna ci sono solo 4 contusi, ma poteva tranquillamente esserci la tragedia. Se la stessa cosa avveniva 100 metri prima sulla riva delle Zattere, Venezia non è costruita in calcestruzzo, in cemento armato, dove le rive sono storiche, le rive sono di mattoni, si va direttamente all'impatto sulle case, beh, il danno fisico sarebbe stato incalcolabile, immenso, e soprattutto avrebbe impattato direttamente sulle abitazioni, sulla popolazione civile, sul supermercato che c'è 100 metri prima, insomma avrebbe impattato direttamente sulla vita quotidiana di una città abitata, perché Venezia non è un Luna Park per crocieristi, Venezia non è la Disneyland che il sindaco Brugnaro vorrebbe, è una città abitata dai suoi cittadini ancora. L'unica ragione per cui quelle navi passano di lì è una ragione turistica, no? Ancora peggio, cioè chiaramente le compagnie da crociera, cioè, l'esperienza di attraversare Venezia dal 17° ponte, di vedere Venezia dall'alto, vale tutta la crociera. E chiaramente le compagnie da crociera hanno un interesse fortissimo nel mantenere questo passaggio insensato attraverso il centro storico della nostra città, ma il motivo per cui la politica italiana, non le compagnie da crociera che sono tutte delle multinazionali finanziarie americane, svizzere, canadesi, eccetera, no, ma il motivo per cui l'italianissima politica non allontana questi mostri galleggianti dalla nostra laguna è molto più meschina, è una ragione puramente economica dettata da un'altrettanto italianissima situazione di monopolio di concessione delle banchine. Se i soldi veri che le crociere tirano fuori non è il gelato che si mangia il crocierista alla bancherella, i soldi veri sono i diritti di ormeggio che le compagnie da crociere pagano, parliamo di centinaia di migliaia di euro a tracco, pagano ai gestori, i proprietari, i gestori delle banchine d'ormeggio. Nel nostro caso a Venezia siamo in una situazione di concessione unica, ovvero di monopolio, di queste banchine fino al 2024. E quindi questo è il vero motivo per cui si attaccano con i denti, per cui per anni hanno fatto finta di niente, nulla hanno fatto, governi del cambiamento, del meno cambiamento, non importa. Cioè c'è un blocco di potere che punta a questa posizione di rendita parassitaria, monopolistica, perché se, come in tutto il mondo, si dovesse fare un altro attracco, si dovesse fare un avamporto, piuttosto di trovare un'altra destinazione per queste navi, per la normativa sul libero mercato europeo si dovrebbe andare a bando di gara europea. E questi signori della VTP, la Venice Terminal Passeggeri, ovvero l'SPA, la società privata che gestisce le banchine, non vuole fare perché sa benissimo che in Europa ce ne sono almeno 10 che fanno il loro mestiere meglio di loro. Quindi il motivo per cui la politica, i decisori non si muovono, è per garantire questa posizione di rendita parassitaria monopolistica a una società privata. Voi il prossimo 8 giugno farete una manifestazione? Sì, sabato prossimo 8 giugno, abbiamo lanciato ieri una manifestazione che ci auguriamo sia partecipata a migliaia e migliaia di cittadini, che chiede a questo punto non solo quello che diciamo da sempre, ovvero fuori le navi dalla laguna, ma il blocco immediato, cioè il blocco, basta, problemi loro, trovare una soluzione, che trovino la soluzione, ma nel frattempo che si mettono d'accordo sulla soluzione queste navi devono fermarsi. Non possiamo più giocare a roulette russa con le nostre vite, con le nostre case, con la nostra città, come è successo ieri.